Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Primo appuntamento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, un po' accaldato anche lui, anzi un po' tanto, ritroviamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Un'eccellenza da condividere, questo è il titolo, anzi il sottotitolo del recentissimo rapporto del Censis sul cibo italiano che è stato presentato all'Expo, appunto all'Expo si parla di cibo. Molte famiglie, lo abbiamo sentito anche in alcuni nostri approfondimenti, sempre più famiglie sono in difficoltà anche per quanto riguarda il cibo, non tanto Carlo nel senso che non mangiano, ma perché mangiano cose di scarsa qualità. Sì, Nico, mangiano cose di scarsa qualità, ma soprattutto faticano anche ad arrivare a comprarlo, da quello che è un po' il dato presentato all'Expo qualche giorno fa. Tant'è che rispetto al 2008, che è insomma, l'anno di pre-crisi di cui il dato ha fatto riferimento, risulta che insomma ad oggi ci sono 2,4 milioni di famiglie che per ragioni economiche appunto hanno avuto difficoltà ad acquistare il cibo necessario, e il gap che tra il 2008 e quest'anno è emerso, che circa sono oltre un milione insomma le famiglie rispetto quindi a 7-8 anni fa, e un milione significano parecchie persone, quindi parliamo di cibo, parliamo di fatica di sopravvivere e tutto quello che poi è la conseguenza, che insomma questi numeri possono determinare anche nella società, nella sanità e nelle condizioni in cui insomma, queste famiglie si trovano a ogni giorno a vivere o a sopravvivere. In questi anni di crisi è un tema che ogni tanto abbiamo toccato, appunto sottolineando, Carlo, che la crisi ha costretto a cambiare le abitudini, gli stili di vita, a modificare, a modulare le spese anche appunto nel settore alimentare. Questo può essere certamente un segno positivo, però quando si arriva a superare una certa soglia ovviamente ci vuole un po' di allarme. Sì, Mirko, perché la gente ormai fa fatica ad arrivare ad acquistare il cibo, ha cambiato le abitudini a tavola, mangiano meno carne, mangiano meno pesce, ormai mangiano prodotti che, o comprano prodotti che sono in scadenza o scaduti per rivolgersi a certe offerte o a certe promozioni, e quindi si crea tutto un sistema di alimentazione che a volte va anche un po' contro a quelli che sono dei sani principi che invece si dovrebbe tenere, soprattutto quando ci si nutre, perché ricordiamo che una sana ed equilibrata alimentazione può prevenire anche molte malattie. Certamente bisogna anche precisare purtroppo come sta tra queste famiglie che hanno difficoltà ad acquistare il cibo, ci sono purtroppo le famiglie che hanno figli, tant'è che la spesa alimentare nel 2007-2014, per cui le famiglie hanno subito maggiori tagli, riguardano le coppie con due figli, meno 15,6%, e addirittura meno 18,2% le famiglie e le coppie con tre figli. Quindi parliamo, capisci, non solo di adulti ma anche di bambini e neonati o ragazzi che subiscono un po' questa situazione. Potremmo dire, forse un'esagerazione, ma appunto vuole essere anche una provocazione la mia, che magari è più facile comprare dei cibi che costano meno ma sono meno nutrienti piuttosto che riuscire ad acquistare dei cibi più sani che però sono di una fascia un po' più alta. Bisogna dire che oggi assistiamo a diversi fenomeni, ovvero cioè, se da una parte c'è un aumento dei prodotti biologici, e questi sappiamo che tendenzialmente costano anche di più rispetto ad altri, d'altro canto assistiamo a delle autentiche code, per esempio sugli hard discount. Sappiamo che le persone si muovono soprattutto presso i centri commerciali per acquistare i prodotti in offerta, però bisogna anche appunto concentrarci su quello che è il fenomeno che sempre più persone acquistano prodotti scaduti o prossimi alla scadenza, di cui molte volte vengono messi in offerta, che si possono dobbiamo anche dire tranquillamente anche mangiare il giorno stesso, il giorno prima o il giorno dopo rispetto alla data di scadenza, ma che ciò secondo noi non possiamo certo dire che è un comportamento corretto, perché sicuramente c'è un maggior rischio qua di potersi esporre a qualche rischio rispetto a chi magari mangia un cibo lontano dalle date, soprattutto in questo periodo di caldo dove la data di scadenza diventa molto importante. Però ritornando sul fenomeno delle persone che faticano a comprare il cibo, certamente bisogna anche riflettere su quello che è lo stato reale della nostra economia, della situazione in cui vivono le famiglie, dove secondo me passano troppi messaggi di incoraggiamento e in realtà poche volte invece si concentra su quelle che sono le reali difficoltà, perché poi quando si parla appunto di alimentazione dobbiamo dire che le famiglie non hanno più soldi per curarsi, non hanno più soldi per fare prevenzione sanitaria, quindi si comincia a tagliare su quei settori fondamentali e strategici che insomma a volte sono necessari anche per sopravvivere. Sì, dicevi, no, c'è il legame tra la cattiva qualità del cibo e poi un peggioramento delle condizioni di salute, e poi alla lunga questo ha chiaramente un costo sul bilancio familiare, ma più in generale sul bilancio dello Stato. Un altro aspetto di cui non teniamo troppo conto è il fatto che molti mangiano perché appunto lavorano fuori, lavorano a distanza, mangiano fuori casa, ma non necessariamente il pasto che viene fatto fuori casa è di qualità, se di questa parliamo appunto. Sì, sempre è di qualità, abbiamo anche dei dati anche qui certificati dai Censis dove dicono che se da una parte c'è aumento delle famiglie appunto che faticano a comprare il cibo, dall'altra c'è un aumento delle persone che mangiano fuori casa, e parliamo di 6,3 milioni, probabilmente sono tutte persone che lavorano o utilizzano le mense del lavoro rispetto che a una scelta di passare il loro tempo per i ristoranti, mentre aumenta anche il numero delle persone che si rivolgono ai fast food. Quindi anche qua parliamo quindi di una qualità dell'alimentazione che insomma non siamo certamente all'eccellenza. E mentre tra tutta questa indagine emerge come insomma alla fine gli italiani sono nel bene e nel male anche dei discreti chef, addirittura 38 milioni e oltre dichiarano insomma di sapersi cavare tra i fornelli e saper cucinare. Quindi ci sono anche delle tendenze che insomma ci incuriosiscono, ma che ci anche contestualmente ci affermano rispetto ad altri paesi. E una discreta cifra anche di persone che dichiara di essere vegetariana o addirittura vegana, e qua parliamo insomma di quasi 4,5 milioni di persone che seguono questa dieta regolarmente, mentre quasi 19,5 milioni di persone che hanno queste tendenze rispetto a qualche anno fa, che invece avevano una dieta, un'alimentazione più ricca di carne e pesce. Eh sì, sul carne e sul pesce poi ci sarebbe molto da dire anche a livello di allevamenti, l'impatto globale che hanno appunto gli allevamenti massicci per poi dare carne e pesce da mangiare a tutta la popolazione mondiale che ormai supera ampiamente i 7 miliardi di persone. Ma questo è il tema di un altro eventuale approfondimento. Noi tra un paio di giorni invece parleremo di una vicenda di una persona deceduta e di quello che è arrivato agli eredi, non solo il positivo ma anche dei debiti. Intanto ricordiamo associazionedifesaconsumatori.it per altri approfondimenti. Grazie al presidente Carlo Garofolini, tra un paio di giorni. Grazie a te amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci in collaborazione con Adico, associazione difesa consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.